Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. Ciao Chiara. Ciao Federico, ben ritrovati a tutti. Cosa ti dico? Bau? Sì, dimmi bau o sorridimi che ti sorrido. Ecco, è un po' questo il sunto del primo servizio di oggi. Come funziona la nostra mente quando dobbiamo fare delle scelte che riguardano i denari? Parleremo di economia cognitiva. E poi chiudiamo con una domanda di un ascoltatore che si chiama Federico sul caco, il frutto. Rinnoviamo l'invito a tutti gli ascoltatori di mandarci le domande di scienza. Partiamo. Via. Allora adesso finalmente capiremo se bau bau vuol dire qualcosa. Come si scrive? Bau, sì. Anche i cani lo scrivono così. Probabilmente sì. Adesso lo chiediamo alla nostra esperta, che è la nostra etologa, che di solito chiamiamo, sui primati, ma in questo caso ha coordinato uno studio anche sui cani, Elisabetta Palagi. Ben trovata, bentornata qui a Mebius. Ciao, salve a tutti. Tu sei etologa dell'Università di Pisa. Questa volta avete fatto uno studio, tu e il tuo team, con anche il Museo di Storia Naturale dell'Ateneo di Pisa. Avete fatto uno studio sul contagio emotivo nel cane. Ora ti chiediamo magari di raccontarci che cosa significa il contagio emotivo e poi andiamo a capire che cosa avete osservato davvero. Dunque, il contagio emotivo accade spessissimo nella vita di una persona, perché è... semplicemente la capacità di farsi contagiare dal punto di vista psicologico dagli altri. Cosa vuol dire? Se io vedo una persona che ride a crepapelle, si regge la pancia, io sono portata automaticamente a fare la stessa cosa. Questa mimica, e quindi questa capacità che ho di riprodurre esattamente in modo inconscio, automatico, rapido, velocissimo, che non posso controllare, la risata, mi fa provare le stesse sensazioni che quella persona sta provando mentre ride. Allo stesso modo anche per le emozioni negative, cioè se noi vediamo una persona molto rattristata è difficile che gli si rida in faccia. Esatto, ecco. È la stessa cosa, ecco. È la stessa cosa per cui quando si vedono immagini di persone tristi che... quindi diciamo esprimono delle emozioni di tipo negativo, ci si chiude lo stomaco e automaticamente siamo portati a riproporre la stessa identica espressione facciale. E allora con i cani cosa è successo? E allora la domanda che ci siamo posti è: ma considerando che questa capacità è stata dimostrata nell'uomo o in qualche altra specie di primate, potrebbe essere anche che magari nel cane, che comunque è un animale che condivide con l'uomo ormai una lunga storia, no? Grazie al processo di domesticazione, anche nel cane è possibile andare a ricercare e ritrovare una cosa simile. Ma tu ci stai facendo credere, ad esempio, che un barboncino possa in qualche modo sorridere o fare una faccia triste e provocare la stessa reazione in un suo consimile? Dunque, una stessa reazione è possibile. Su tutte le espressioni facciali ancora non si sa. Perché diciamo l'espressione facciale che noi siamo andati a testare, a verificare, è l'espressione cosiddetta open mouth, cioè l'apertura rilassata della bocca, che è un comportamento che spesso gli animali fanno, anzi lo fanno quasi esclusivamente quando giocano. E la stessa cosa l'abbiamo fatta non solo con un'espressione facciale, ma anche con una postura corporea, che si chiama play bow, cioè l'inchino giocoso. Quando il cane abbassa il treno anteriore, le zampe anteriori con la testa quasi schiacciata a terra e tiene il corpo ad arco, si prepara a scattare. Tiene il sedere in alto? No, in realtà no, perché per scattare il peso va tenuto sulle zampe posteriori, non sulle zampe anteriori. Ah, ok, quindi si mette in realtà è una posizione abbastanza vantaggiosa quella lì. Ecco. In tutti i canidi, non solo nel cane, ma anche nel lupo, l'abbiamo osservato, nei coyote, eccetera. Quindi questa capacità la siamo andata a cercare in un ambiente quanto più naturale possibile. Siete andati praticamente in un giardinetto pubblico? In un giardino pubblico dove era possibile lasciare i cani liberi. A Palermo, se non sbaglio, Elisabetta. A Palermo perché? Perché Velia Nicotra, che è il secondo autore del nostro studio, è siciliana, vive a Palermo e lei ha detto: io voglio fare questa cosa. Okay. E quindi abbiamo impostato la procedura sperimentale e lei è andata a fare questa cosa. Andava nel giardino dove incontrava padroni e cani e ha raccolto circa 50 ore di video abbastanza buone da poter analizzare. Quindi lei riprendeva tutti i comportamenti dei cani all'interno di questo giardino pubblico, giusto? Esatto, lei andava lì e ogni volta che giocavano, comunque se si scambiavano dei comportamenti, lei attivava la telecamera, che praticamente aveva sempre accesa perché erano molti spesso i cani, quindi lei non poteva perdere d'occhio nessuno. Okay. Contestualmente faceva anche, sottoponeva i padroni ad un questionario per raccogliere le informazioni base del cane, l'età, se erano stati sottoposti o era successo che magari presi in canile potessero aver subito dei maltrattamenti, cioè la storia del cane del singolo soggetto. Inoltre avevamo anche raccolto informazioni riguardo al rapporto del cane con altri cani, in modo tale da poter buttare giù una specie di graduatoria dei cani che si frequentavano molto spesso e quindi potevano essere considerati amici, di quelli che si incontravano raramente oppure di quelli che era la prima volta che si vedevano. Ah, giusto, perché ci sono i cani amici, certo. Esatto. In totale quanti cani avete analizzato? Allora, i cani su cui avevamo le video osservazionali erano 49. Mm-hmm. Poi in realtà è stato possibile fare le analisi, quelle vere sulla mimica facciale, soltanto su 21 soggetti, perché avevamo bisogno di riprese molto buone, cioè gli animali dovevano essere presi lateralmente, dovevano essere visibili entrambe le facce, quindi diciamo abbiamo dovuto scartare molte ore di video per riuscire ad avere un buon campione, pulito, come diciamo noi. Bene, allora dopo tutto questo lavoro, appunto, che sappiamo essere un lavoro di ricerca immane, che cosa succede? Insomma, siete giunte a delle conclusioni, ovviamente statisticamente, scientificamente valide. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista della Royal Society, quindi sulla valenza scientifica non abbiamo dubbi. Che cosa è venuto fuori? È venuto fuori questo, che intanto sono capaci di mimica facciale, quella mimica rapida, inconscia, automatica, che è tipica dell'uomo e di qualche altra specie di primati, che avviene in modo rapidissimo, entro un secondo. A volte il primo cane non ha ancora chiuso la bocca che già l'altro è partito imitandolo. Quindi è una cosa immediata. Mm. La seconda cosa che è stata molto interessante è che quelle sessioni di gioco avevano, caratterizzate dalla mimica, cioè da almeno un fenomeno, un evento di mimica facciale, avevano una durata molto maggiore nel tempo rispetto a quelle sessioni che dove c'erano gli stessi segnali ma non venivano mimati. Sembra che la mimica, riprodurre l'espressione facciale dell'altro, favorisca in qualche modo l'accordo tra i due giocatori, che quindi mantengono più a lungo la sessione di gioco. La durata del gioco in etologia viene spesso considerata come successo del gioco stesso. Se è autogratificante l'interazione, gli animali hanno tutto l'interesse a mantenerla il più possibile. Cioè, uno si esprime, se l'altro non risponde, finisce lì. Esatto. Vuol dire che non è... finisce lì, o comunque mediamente è più breve. L'operazione dura meno. Ma secondo voi questo tipo di atteggiamento, questo contagio emotivo, è dovuto al fatto che l'animale è comunque abituato, perché sta con l'uomo, quindi a trovarsi in ambiente, come dire, sociale forzato, o lo spiegate come una capacità innata? Questo non lo sappiamo. Questo non lo sappiamo finché non riusciamo a fare la stessa cosa anche su altre specie, come ad esempio il lupo. L'idea è quella di cominciare a pensare, spero presto, uno studio sul lupo e su diverse razze di cani, in modo da capire se è la selezione artificiale operata dall'uomo che ha in qualche modo spinto gli animali a questo tipo di comportamento, oppure è una capacità innata, antica, che il cane domestico condivide con la sua forma wild, con la sua forma selvatica. E un'ultima domanda velocissima, anche se complicatissima: forse noi alcuni di questi comportamenti li potremmo spiegare con i neuroni specchio. Qui a Mebius ogni tanto ne abbiamo parlato. Per gli animali, e in questo caso per i cani, potrebbe esserci un meccanismo di questo tipo? Dunque, non lo sappiamo, perché in realtà la presenza dei neuroni specchio non è mai stata investigata nel cane, quindi il fatto che se abbiano o non abbiano neuroni specchio, questo non lo sappiamo. Con questo studio apriamo una porta, non è che certo, la chiudiamo. È certo. Va bene, grazie Elisabetta, grazie per la vostra ricerca e ci sentiamo presto. Ciao, grazie a voi. Ciao, buon lavoro. E ora ci dicono cosa succede sulle strade. Amore. In quanti modi possiamo dire la stessa cosa? E cosa succede quando una parola assume un significato diverso da quello che volevamo? Dipende tutto dalla nostra voce. Voice Anatomy, un programma di Pieno Insegno, io, in onda tutte le domeniche alle 14.30 qui su Radio 24. Ah, dimenticavo, lasciate un messaggio alla nostra voice box 828 12 12. Potreste scoprire di avere un futuro in uno dei nostri mondi. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. recupera, ha vinto, straordinaria impresa di Mennea. Ferma Scirea, Bergomi, Gentile, ha finito, campioni del mondo, l'Italia ha vinto la finale battendo la Germania per 3-1. Certe imprese sono possibili solo a Olimpia, la città dello sport. Qui ad Olimpia si trova il santuario di Zeus, perché grazie all'esistenza di questo santuario sono nati i giochi olimpici nell'antichità per onorare Giove. Sono Dario Ricci, vi aspetto a Olimpia, la città dello sport, con i suoi miti, le sue verità, i suoi segreti. Ogni domenica alle 20.30, qui su Radio 24. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Vi abbiamo già fatto sentire un paio di puntate fa un servizio da questo grosso convegno di neuroscienze che c'è stato a Roma un mese fa, indetto dalla Lundbeck, che per i 100 anni di questa casa farmaceutica danese. E è un convegno in cui si sono trovate diverse ricerche, diverse esperienze di neuroscienze. Questa volta, questa settimana, vi proponiamo qualcosa che riguarda l'economia e le neuroscienze. Può sembrare un parallelo difficile e invece è perfettamente motivato. E con noi questa sera per parlarci di questa cosa c'è Matteo Motterlini. Buonasera Motterlini. Buonasera a voi. Matteo Motterlini è docente di economia cognitiva all'Università San Raffaele di Milano. Ecco Motterlini, lei al convegno, all'inizio del suo intervento, ha fatto fare un esperimento al pubblico. Cominciamo da qui. Che cos'è che ha fatto fare? Ma ho fatto vedere al pubblico come siamo prevedibilmente irrazionali e quindi mi sono divertito facendoli cadere in trappola. E ho fatto loro l'effetto incorniciamento, cioè ho incorniciato uno stesso problema in termini di guadagni, in termini di perdite, e si sa che la cornice può modificare le scelte. E lo faccio capire con un esempio molto semplice. Lei comprerebbe più volentieri un maglione 80% puro cashmere o 20% misto lana? O se vuole un esempio un po' meno divertente, un po' più drammatico, se deve fare un intervento magari grave come il cancro al polmone, preferisce fare l'intervento se ha l'80% di probabilità di sopravvivere o il 20% di probabilità di morire. Evidentemente sto descrivendo la stessa cosa, ma il modo in cui lo descrivo può modificare le nostre preferenze. Tendiamo a fare delle scelte che noi dovremmo essere perfettamente razionali e la cornice non dovrebbe influenzarci la nostra decisione. Sì. Invece finiamo intrappolati da degli elementi contestuali e non dalla natura stessa del problema. La cosa divertente è che, in modo molto sincero e franco, anche il mio pubblico, fatto di neuroscienziati di grandissima fama, è caduto in questa trappola quando abbiamo organizzato il tranello. E infatti io c'ero, l'ho visto. Ho tirato fuori la loro irrazionalità in un contesto di una decisione di tipo economico. Quindi su questo ecco che, a partire da un ragionamento che fa parte di ricerche neurocognitive, viene fuori che questa pretesa razionalità intrinseca del comportamento economico relativa anche a un mercato che avrebbe una sua razionalità, come dire, buonanotte. Ecco, questo è il punto probabilmente più interessante e dove ci assistono le neuroscienze. Ora, che noi non siamo razionali ormai lo sappiamo abbastanza bene. Il punto è che 30 anni di ricerca in quest'ambito, in particolare le ricerche che indagano i correlati neurali, ci hanno mostrato che la nostra irrazionalità è sistematica e pertanto può essere indagata. Può sembrare un paradosso, ma la nostra irrazionalità oggi è studiata razionalmente, cioè attraverso lo esperimento e l'osservazione, cioè con metodo scientifico. Ed ecco che vengono fuori delle cose molto interessanti. Ad esempio, iniziamo a conoscere i correlati neurali di quando guadagniamo o perdiamo denaro, oppure di quando trafichiamo con rischio e l'incertezza. Cioè voi state facendo proprio degli esperimenti di questo genere con dei campioni che mettete in condizioni di scelta, no? Le più diverse, e continuate a misurare razionalità e irrazionalità. Ma in qualche modo sì, questi sono i risultati che ho presentato a questo convegno. Innanzitutto facciamo degli esperimenti evidentemente sotto risonanza magnetico-funzionale, che è la macchina che ci consente di guardare dentro il cervello, proprio nel momento esatto in cui una persona prende una data decisione. E in particolare a San Raffaele, uno degli esperimenti più noti che abbiamo fatto è che abbiamo potuto vedere come le persone sono avverse alle perdite, cioè le persone pesano psicologicamente le perdite più del doppio dei guadagni e abbiamo osservato che la paura di perdere è intercettata da un'area del nostro cervello che si chiama amigdala e per la prima volta si è riusciti a correlare l'anatomia dell'amigdala, cioè le persone che hanno più volume di materia grigia nell'amigdala sono anche più avverse alle perdite e quindi abbiamo potuto correlare, come dire, una struttura anatomica del nostro cervello con un comportamento di tipo economico. E ci spieghi bene questa cosa dell'essere molto avversi alle perdite, perché detta così sembrerebbe, come dire, banale, una cosa naturale, mentre invece è all'interno del suo discorso che il ragionamento si complica, no? Sì, guardi, allora la scoperta risale a Daniel Kahneman, che è un premio Nobel, ed era già nota dal punto di vista comportamentale. Noi abbiamo aggiunto qualcosa in più andando a vedere una specifica area del nostro cervello che l'intercetta. Il fenomeno comportamentale è questo: una persona come dire, razionale, una persona che guadagna 10 e perde 10 è a 0. Più 10 e meno 10 ci mette a 0. La nostra economia non funziona così, l'economia mentale non funziona così. Funziona che perdere provoca un dolore che è due volte superiore al piacere che ci dà un dato guadagno. Quindi se lei guadagna perde 10 e perde 10, dal punto di vista psicoeconomico lei sta soffrendo ancora circa meno 12. E quindi le perdite pesano qualcosa più del doppio dei guadagni. E questo è abbastanza rilevante perché quasi tutte le nostre decisioni finanziarie non sono prese in valori assoluti, ma dipendono da quel punto esatto in cui iniziamo a calcolare guadagni e perdite, perché noi ci comportiamo in modo diverso se stiamo trafficando con un guadagno o con una perdita. Chiaro, cioè quando a un certo momento la perdita è qualcosa che influenza tremendamente il nostro stato d'animo, in una serie di operazioni continue rischiamo proprio di sbandare dal punto di vista della qualità della scelta, perché siamo molto più caricati emotivamente in una direzione, verso una faccia, questo è il tema. E questo ci riporta al nostro esempio di partenza, perché ho fatto proprio vedere all'aula come noi, nell'ambito dei guadagni, se dobbiamo giocarci delle probabilità, tendiamo a preferire una vincita certa al 50% di probabilità magari di vincere di più. Mentre quando siamo nell'ambito delle perdite, pur di non perdere, siamo disposti, come si dice, a lasciar correre le perdite, a giocarci le probabilità, siamo disposti anche a perdere il doppio più di non perdere con certezza qualcosa. Quindi sia proprio l'evento che siamo asimmetrici. Totale. In un modo che è prevedibile. Ok, e però appunto detta così effettivamente sembra che la nostra testa, la nostra mente diventi proprio preda di un sortileggio, perché dovrebbe essere invece evidente ragionare in altro modo, ma proprio non siamo razionali. E Motterlini, così è chiaro, buona ricerca. Quando ha qualche altro risultato spaventoso della nostra irrazionalità ce lo comunichi. Io sarò molto felice di condividerlo con voi, ma non voglio spaventare nessuno. Va bene. Molto razionali in molti altri settori. Va bene, sì, magari quando dobbiamo acquistare un gelato forse ce la facciamo. Grazie, arrivederla, buonasera. Grazie a voi, grazie, arrivederci. Tornano le domande, sì, degli ascoltatori e ascoltatrici. A questo proposito potete scriverci quando volete e come volete attraverso la mail moebius@radio24.it. Noi rispondiamo a quasi tutto, per ora diciamo che sono poche le domande. Non abbiamo mai mancato, non abbiamo alle mai quali deluso. Non abbiamo risposto. Adesso c'è un tuo omonimo, Federico, ci pone questo quesito. Volevo sapere come mai ogni tanto quando mangio un caco sento quella sensazione di legato alla bocca, come se avessi la lingua salpata. Grazie. Il caco lega, l'abbiamo sempre detto. Ma anche la banana un po' acerba. La acerba, certo. E poi anche certi vini. E in effetti ci sono degli alimenti che danno questa sensazione proprio di lingua felpata. Esatto, di appiccicaticcio. E quindi ci sarà sicuramente una ragione, perché è ovvio che ci sia. E quindi andiamo dal nostro esperto, dal nostro fisico della materia dell'Università di Parma, nostro ospite molto spesso qui a Moebius. Buonasera, professor Davide Cassi. Buonasera. Tocca a lei, solo lei può rispondere. Allora, prendiamola un po' alla lontana, nel senso che prima vorrei spiegare cos'è questa sensazione di legare, questa sensazione di bocca asciutta. Allora, la nostra saliva è fatta prevalentemente da acqua, ma non è solo acqua. Ci sono altre sostanze che la rendono viscosa, cioè permettono di restare in qualche modo appiccicata alla lingua, alle pareti del palato e anche ai denti. Quando passiamo la lingua sui denti abbiamo questa sensazione di liscio e non di asciutto. Sì. Mentre magari dopo aver mangiato un limone ci sentiamo i denti invece completamente asciutti. Allora, questo è dovuto principalmente a una proteina che si trova nella saliva, si chiama mucina, perché è presente nei muchi in generale. Questa proteina ha una grandissima capacità di legare acqua e di tenerla in qualche modo appiccicata alla lingua, in modo tale che la nostra lingua è coperta da una patina liquida, che ci dà la sensazione di lingua bagnata, detto in poche parole. Sì. Che cosa succede? Che ci sono alcune sostanze che fanno precipitare questa proteina, cioè si legano alla proteina, creano un composto che non è più solubile in acqua e quindi se ne va. Queste sostanze sono prevalentemente, nel nostro caso, i tannini. I tannini sono presenti nei vini rossi, soprattutto quelli giovani, e in molti frutti poco maturi, per esempio nei cachi poco maturi. I tannini contenuti nel frutto si legano alla mucina della saliva, la fanno precipitare e abbiamo questa sensazione di bocca asciutta. Ma scusi Cassi, lei parla dei tannini che sembrano una popolazione aggressiva e rompipalle. ma cosa sono? Cioè, hanno una struttura molecolare? Come sì, sono? Sì. Cosa sono delle molecole, sono molecole di vario tipo, di tipo organico, ma hanno anche delle funzioni molto importanti. Per esempio, i tannini sono fondamentali nella concia delle pelli. Ma pensa tu! E hanno anche delle buone proprietà di astringenza positive sul nostro organismo. Questo ve lo può spiegare molto bene un medico. Comunque non fanno male assolutamente, anzi, fanno bene, sono molto utili, però ci danno questa sensazione. In effetti, adesso che lo dice, anche il tè, quando si dice disperde molto tannino, cioè viene lasciata la bustina in infusione per tanto tempo, dà quella sensazione proprio di astringenza. Di appiccicaticcio. Di appiccicaticcio. Questo perché lui cattura in qualche modo questa mucina, giusto? Esattamente, guardi, posso anche suggerire un esperimento da fare ognuno per conto suo, chiaramente. Prendete un po' di saliva, la mettete in un piattino, in una tazzina, magari trasparente, e aggiungete un liquido che contiene tannini. Guardate che cosa succede, è estremamente istruttivo. Ci dica però cosa succede. Allora, ascoltatori, fatelo. Una sputacchina. Saliva su un vetrino. Ma anche una tazzina. Basta un piattino, una tazzina. Sì. Allora, che cosa succede? Che noi la mettiamo, aggiungiamo, per esempio, del vino rosso molto giovane, insomma una sostanza tannica, e vediamo che si formano come dei granuli che si separano dal liquido, e questi granuli sono il precipitato di tannini e mucina. Quindi avremo d'aspetto, vedremo delle bollicine, cosa vediamo? Vediamo una parte, se usiamo il vino rosso si vede una specie di parte granulare più scura, ovviamente, che si separa dall'altra. E quella parte granulare è quella che genera l'attrito, cioè prima era fluido, no? Invece quella granularità lì... A quel punto viene a mancare e quindi la saliva diventa acquosa. Certo. Ma l'acqua giustamente non resta appiccicata. Altro esperimento che vi suggerisco. Asciugatevi la lingua con un fazzoletto. Va bene. E poi bagnatela semplicemente con l'acqua. Vi accorgerete che l'acqua se ne va via abbastanza facilmente se manca la saliva. Scivola via, perché non ha più il collante, tra virgolette. Manca la mucina che la tiene legata, che forma quella patina, forma una sorta di salsa, lasciatemi usare questo termine, che aderisce al prodotto. Uso questo termine perché la salsa non è un liquido. Se fosse un liquido non riuscirebbe ad aderire all'alimento, invece la salsa deve formare un velo. No, certo che parlando con lei siamo partiti dal caco, poi dopo si scopre che per esempio, certo, dentro la nostra bocca c'è una chimica sofisticatissima che però ha una efficienza, svolge delle funzioni che sono assolutamente cruciali, perché se dentro la bocca, lingua, guance, cose non fossero ben fluide, sarebbe un disastro. Cioè, assolutamente. La saliva è anche fondamentale per farci sentire i sapori. Se vi asciugate la lingua di nuovo e mettete un poco di zucchero o di sale sulla lingua, non sentite niente. Vedi. Interessante. È una macchina. Allora, intanto, ascoltatori, provate, fate tutti gli esperimenti, fateci sapere com'è andata. Professore, noi con lei saremo ore e ore perché ci svela sempre questi segreti interessantissimi. Ci risentiremo sicuramente presto. Grazie e buon lavoro. Buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci. Si dice anche all'appa, all'appa. All'appare, non so se è un gergale dialettale. Lo diciamo la prossima volta. Ecco, e voi, mi raccomando, mandateci tutte le vostre domande di scienza. Che va bene. Buona settimana a tutti e a tutte. Ciao.